Radio 24 Reportage. Caccia al tesoro degli evasori di Valentina Furlanetto. È vero, io ho la residenza in Italia ed è anche vero, per quello che so, che molti miei colleghi, direttori o cantanti, non hanno la residenza in Italia, ma questa è una loro scelta. Il maestro Riccardo Muti è stato chiaro: portare la residenza all'estero per non pagare le tasse è un vizietto abbastanza diffuso nel bel paese. Si stima che gli italiani custodiscano all'estero circa 200 miliardi di euro. In gran parte lo fanno spostando la loro residenza appunto nei paradisi fiscali. Di fronte a questo scenario è chiaro che chi evade le tasse non consegnando la ricevuta fiscale o lo scontrino, per quanto biasimevole, è solo un topolino di fronte a una montagna. E non è certo un vizietto solo delle persone famose, come spiega Paolo Valerio Barbantini dell'Agenzia delle Entrate. Non è, come dire, riconducibile a un'unica tipologia di contribuente e né deve essere effettivamente attribuita ai casi noti, non so, in persone fisiche come personaggi noti dello spettacolo piuttosto che sportivi. In realtà questo è un fenomeno che effettivamente va a toccare sia imprese multinazionali, società con attività localizzate unicamente nel territorio, quindi imprese italiane, piccoli imprenditori, grandi imprese, grandi contribuenti. Un altro grande capitolo quando si parla di grande evasione internazionale è quello IVA. Mario Draghi, da governatore di Banca Italia, disse che se tutta l'IVA fosse pagata regolarmente, il rapporto deficit prodotto interno lordo in Italia sarebbe fra i più bassi d'Europa. Secondo i dati della Banca d'Italia, infatti, tra il 2005 e il 2008 è stato evaso il 30% della base imponibile dell'IVA, equivalente a 2 punti di prodotto interno lordo ogni 12 mesi. Nel 2010 l'evasione IVA accertata dalla Guardia di Finanza ha raggiunto 6 miliardi e 300 milioni. Fra le più grandi frodi IVA c'è la frode carosello. Il tenente colonnello Gianluca Campana. La frode carosello è un meccanismo di frode all'IVA e si basa sulla importazione di merci da paesi comunitari in sospensione di IVA, cioè senza applicazione dell'IVA. L'importazione avviene da parte di società che non presentano le dichiarazioni, rivendono la merce ai destinatari applicando l'IVA, che però omettono di versarlo all'erario e spariscono dopo poco tempo. Si tratta di delle cosiddette imprese cartiere. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, chi ha piedi caldi se ne sta, viva i soldi! In questi anni, però, per stanare i grandi evasori internazionali, l'Agenzia delle Entrate non è rimasta con le mani in mano. Anzi, ha chiamato il migliore segugio da tartufi in circolazione, Antonio Martino, già alla Guardia di Finanza, dove collaborava con la Procura milanese. È lui, ad esempio, ad aver scovato e coltivato la teste Omega, Stefania Ariosto, decisiva per il lodo Mondadori, ed è stato sempre lui ad aver lavorato su Parmalat. Ed ora è lui a guidare gli 007 dell'Agenzia delle Entrate alla ricerca dei grandi evasori internazionali. Bisogna subito sfatare una leggenda metropolitana. Detenere delle attività economiche e finanziarie all'estero non è assolutamente vietato, a patto che queste attività siano palesate al fisco. E molto spesso invece queste attività che vengono detenute illicitamente all'estero e che sono poi quasi sempre fittiziamente intestate delle società offshore, costituiscono dei fondi indichiarabili perché sono essi stessi il frutto di attività di evasione fiscale o, come dicevo, purtroppo talvolta sono il prezzo, il profitto, il prodotto di altri reati ben più gravi. Qualche volta costituiscono proprio la provvista monetaria per il pagamento appunto di quei servizi illeciti, di quella corruzione che è necessaria per accaparrarsi ai fondi neri a tutti gli effetti. Grazie a Martino e ai suoi uomini si è passati da 6 miliardi di euro emersi nel 2006 a oltre 10 miliardi nel 2010 e 12 nel 2011. Anche la politica però dovrebbe fare la sua parte, invece l'Italia si riempie la bocca con la lotta all'evasione internazionale, ma poi alla conta sono appena 29 i negoziati bilaterali intrapresi dal nostro paese per riportare in patria i tesori custoditi oltre confine, contro i 141 accordi bilaterali stretti dalla Francia, i 140 dell'Inghilterra e i 111 della Germania. All'appello manca soprattutto l'accordo con la Svizzera, già stretto da Gran Bretagna e Germania. Alla Merkel, ad esempio, ha fruttato ben 4 miliardi. Per l'Italia i miliardi che si potrebbero incassare sono molti di più. Si stima che potrebbero essere da 15 a 40. Una manovra finanziaria. Via, via. Vieni via di qui. L'accordo però non è stato fatto per l'ostilità del precedente ministro dell'economia Tremonti, che non voleva che i capitali rimanessero anonimi, forse dimenticando che anche con il suo scudo fiscale i capitali restavano anonimi. E allora era un anonimato al 5% delle tasse. Non si capisce perché non vada più bene con un'aliquota che invece sale dal 19% al 34%. Insomma, quando si incasserebbe molto di più. Chips, chips. Datti du di du ci bom ci bom bom. Datti du di du ci bom ci bom bom. Datti du di du. Per riportare i capitali custoditi illegalmente all'estero, un altro modo ci sarebbe: utilizzare le liste che contengono i nomi dei presunti grandi evasori. Ne girano parecchie nel sottobosco dell'evasione internazionale: la lista Pessina, la lista Vaduz, la lista Falciani. Operazioni spregiudicate? Beh, certo, ma per i tedeschi, ad esempio, ne vale la pena. La Germania, senza formalizzarsi troppo sull'origine dei dati, si è da tempo pronunciata sulla validità delle informazioni acquistate dai servizi segreti per stanare gli evasori tedeschi. Invece l'Italia, dove in certe zone si gira in motorino senza casco, in questo caso inorridisce per procedure di questo tipo. Rischia di fare giurisprudenza la decisione di un giudice di Pinerolo, che ad ottobre ha archiviato il caso di un presunto evasore citato nella lista, dove apparivano anche altri 7.000 nomi di italiani, che ora, se la sentenza farà giurisprudenza, rimarranno ancora ignoti al fisco. L'avvocato Giacomo Lunghini. La lista Falciani non consente di sostenere un'accusa in giudizio per tanti motivi. La procura prima e il GIP poi hanno accolto la mia richiesta di distruggere quei documenti in applicazione di una norma che era stata introdotta nel 2006 quando c'era stata la cosiddetto affare Telecom. La norma che è stata introdotta è stata quella che dice i documenti frutto di dossieraggio abusivo non possono essere utilizzati e ne va disposta la distruzione. Come conseguenza della distruzione vi è il fatto che chi detenga a quel punto quei dati, a quel punto commette un reato. Quindi Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate? Bravissima, in teoria è proprio quello che ritengo, ma indipendentemente dal fatto che commetta o meno un reato, pacificamente, a mio avviso, non può utilizzare quei dati. E quindi per salvare Telecom e i suoi segreti tutti liberi gli evasori. Ma secondo la Guardia di Finanza le cose non stanno così. La lista Falciani si può usare. Il tenente colonnello Campana. La Guardia di Finanza ha acquisito quella che è comunemente nota come lista Falciani utilizzando i canali ufficiali della collaborazione amministrativa ai fini fiscali. Quindi si tratta di documentazione acquisita in maniera rituale e ufficiale. Noi abbiamo, nei confronti di questi soggetti, abbiamo avviato i nostri piani di controllo. Abbiamo al momento avviato oltre 3.000 verifiche, di cui 2.700 ne abbiamo concluse, e ci hanno scoperto di individuare redditi non dichiarati dai contribuenti per oltre 570 milioni e individuato circa 170 soggetti responsabili di reati tributari che abbiamo denunciato alle procure della Repubblica. In questo contesto abbiamo altresì individuato 76 persone che non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi, si tratta dei cosiddetti evasori totali. Ma chi è il giudice che ha deciso a Pinerolo per l'archiviazione e perché ha preso questa decisione? Si chiama Gianni Reinhold e lo spiega così. Il tema delle prove cosiddette illecite è un tema dibattuto da tempo. Il punto è che si diceva una volta, questa la teoria che risale non a Cordero ma ancora ai medievalisti, ai cultori medievalisti, la teoria del male captum bene retentum. E mentre noi discutiamo di cultori medievalisti in latino, la pragmatica Germania compra sotto banco le liste, individua gli evasori, fa i processi e incassa i soldi. Ma scoprire un evasore non significa automaticamente che questo poi paghi. A volte, una volta scoperto, magicamente si volatilizza, oppure risulta fallito, avendo prudentemente intestato immobili e altro a mogli, nonne, zii e cognati. Alla fine dell'evasione accertata in Italia nel 2009, pari a oltre 26 miliardi di euro, è stato effettivamente riscosso da Equitalia solo il 10%, cioè 2,7 miliardi, con un danno per l'erario di circa 24 miliardi di euro. Se noi incassiamo il 10% dell'evasione accertata, l'Inghilterra arriva al 91%, la Francia all'87%, il Belgio all'84%, la Spagna all'81%, ma ci battono anche l'Albania e la Turchia, che riscuotono rispettivamente il 44% e il 58%. Tanto che nell'arco di 10 anni l'evasione accertata ma non recuperata è cresciuta e ammonta alla stratosferica cifra di 450 miliardi di euro, un tesoro che lo Stato non sa o non può recuperare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.